ascolta la mia voce nel silenzio della notte. Non chiudere la porta. La vita corre sempre più veloce e la tua ombra mi segue anche in fondo ai miei sogni. L'alba fa rinascere la speranza che avevo perso sulle strade del mondo. Disegno la mia vita che in me vuole ancora vivere e rispecchia tutto ciò che sento. Scende lentamente una lacrima sul mio viso, è lo specchio del mio io. Libero di credere, libero di pensare, libero, libero, libero senza catene. Libero di credere, libero di pensare, libero, libero, libero senza catene. Sono qui e stringo le mie mani. Queste mani, ognuna ha la sua storia. Sono qui e nelle mani non ho niente. Queste mani nella gioia e nel dolore. Sono nel mio vento e voglio ancora brividi come stelle che brillano. Cerco nella folla volti sconosciuti che non conoscono felicità. Sento forte ancora il richiamo della vita e cancellare la solitudine. Regalo i miei sorrisi, regalo carezze per un mondo senza odio. Apriamo i nostri cuori, non restiamo indifferenti, diamo un senso alla vita. Libero di credere, libero di pensare, libero, libero, libero senza catene. Libero di credere, libero di pensare, libero, libero, libero senza catene. Sono qui e stringo le mie mani. Queste mani, ognuna ha la sua storia. Sono qui e nelle mani non ho niente. Queste mani, nella gioia e nel dolore.